giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Subito più treni per Venezia, Rete Ferroviaria Italiana fa il punto sui lavori per velocizzare la linea, primi effetti da fine 2025. 120 posti per diverse posizioni nel gruppo friulano dell'acciaio Pittini, oggi il giorno delle selezioni. L'idea geniale non sempre basta, Udine la scuola che insegna le start-up, il business di successo. L'auto da corsa che non inquina, l'hanno ideata e realizzata un gruppo di studenti dell'Università di Udine. Una sessantina di monete antiche restituite al Museo di Aquileia, confiscate nella casa di un collezionista deceduto. La scuola come luogo di incontro intergenerazionale per la comunità, l'esperimento di un liceo a Pordenone. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Qual è lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie del territorio regionale e anche di quelle finanziate con i fondi del PNRR? Lo abbiamo chiesto direttamente a RFI, Rete Ferroviaria Italiana, il servizio. Chi percorre magari con frequenza la linea ferroviaria Trieste-Venezia non può non chiedersi ma quando finalmente non saranno più necessarie le quasi due ore di tempo per arrivare a Mestre, vero nodo di scambio per raggiungere poi altre destinazioni? Cantieri dal finestrino non se ne vedono, eppure la verità è che si sta lavorando. Invisibile ma costante è il lavoro di upgrade tecnologico iniziato e che ha ricevuto importanti finanziamenti da parte del PNRR. Questo permetterà una maggiore capacità della linea, quindi una maggiore frequenza di convogli, e a regime si arriverà anche a una velocizzazione della linea stessa. I treni potranno correre fino a 200 km orari. Questo accadrà in maniera progressiva tra il 2025 e il 2026, promette RFI. Ma i tempi di percorrenza di quanto verranno ridotti? Giuseppe Romeo, responsabile investimenti nord-est di RFI. E già a partire dall'attivazione di questi primi interventi di potenziamento tecnologico riusciremo ad ottimizzare i tempi di percorrenza fino a 7 minuti, quindi recupereremo nella tratta tra Trieste Airport e Mestre 7 minuti di percorrenza, raggiungendo quindi le due località in circa un'ora. A regime, con il completamento degli interventi anche infrastrutturali, riusciremo a recuperare circa 30 minuti, arrivando ad un'ora anche tra Mestre e Trieste Centrale. Nei prossimi mesi avvieremo la gara d'appalto per l'upgrade tecnologico della tratta tra Bivio Orisina e Villa Opicina. Tutto questo garantirà il raggiungimento di obiettivi significativi in termini di regolarità di esercizio e quindi di incremento di capacità e di affidabilità dell'infrastruttura. E proprio lungo la tratta Venezia-Trieste dall'11 giugno due nuove coppie di treni, tutti i sabati e tutte le domeniche fino al 28 novembre. Le corse in più servono a soddisfare i tanti croceristi che si imbarcano a Trieste e spesso provengono dall'aeroporto di Venezia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Electrolux, incontro con l'azienda sul futuro di Porcia in programma oggi. Se l'esito non dovesse essere soddisfacente, i sindacati hanno già detto di non escludere forme di protesta. L'incontro, che potrebbe essere decisivo per delineare il futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia, è alle 14. Parteciperanno i rappresentanti provinciali di FIM, FIOM, WILM, le RSU. Per Electrolux ci sarà il responsabile del personale e il marketing manager. Intanto nella notte si è arrivati ad una bozza di accordo per lo stabilimento di Susegana di Electrolux in provincia di Treviso. Questa mattina alle 5 i segretari nazionali dei sindacati confederali di categoria hanno terminato una riunione estenuante con l'azienda iniziata ieri alle 14:30. Questa mattina c'è stata già una prima assemblea in fabbrica a Susegana per illustrare agli operai in che cosa consiste l'ipotesi di accordo, ne seguiranno altre e poi si riuniranno le rappresentanze sindacali unitarie, interne, infine i lavoratori decideranno con un referendum se accettare o no l'accordo. In che cosa consiste? Prevede 100 milioni di euro di investimento da parte di Electrolux nello stabilimento di Susegana per prodotto e processo. Si passerà da 94 a 108 pezzi l'ora prodotti. Si prevedono 62 lavoratori con la linea nuova e ci saranno quindi assunzioni e migliorie tecniche. Cosa positiva, ci dice il sindacalista della CISL, è che l'investimento si fa a Susegana, quindi in Italia, e non si parla più di investimenti stranieri da parte di aziende cinesi o coreane. La risposta definitiva sull'accettazione o meno di questo accordo da parte degli operai arriverà entro il 9 giugno. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E è un percorso formativo e di condivisione di esperienze che ha l'obiettivo di affiancare le realtà imprenditoriali più giovani del territorio. Si chiama Startup Academy ed è stata presentata oggi a Udine. Una startup può avere l'idea geniale e le competenze per realizzarla, ma spesso cade sul modello di business, oppure non sa vendersi bene al mercato e alle banche, generando fiducia nei possibili investitori. Per facilitare questo percorso, Confindustria Udine lancia un Academy, ovvero un percorso formativo di educazione imprenditoriale destinato a 10 imprese. Al via il 23 giugno, supportato da Friuli Innovazione, Regione e Civibank, prevede un corso di 4 mesi organizzato in 2 fasi. Una prima di formazione in aula, una seconda di accompagnamento individuale. Si impara a parlare la stessa lingua degli investitori, fare un'analisi di mercato, sviluppare una proposta di valore per il proprio prodotto, elementi di finanza agevolata, contrattualistica. Obiettivo: avere più probabilità di convincere l'interlocutore e capire quali sono gli interlocutori che finora non sono stati coinvolti. Le aziende selezionate sono state valutate da Confindustria Udine come le migliori start-up sul mercato e associate gratuitamente, anche per sfruttare un tipo di contaminazione reciproco, ha detto la vicepresidente Anna Mareschi Danieli. Obiettivo, secondo Stefano Casaleggi, presidente di Friuli Innovazione, realizzare annualmente 3 edizioni della Startup Academy per formare 30 realtà sul territorio all'anno. Si tratta di un progetto di sistema, indica l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen. Questo territorio ha bisogno di realtà che siano in grado di attrarre altre startup innovative, ha aggiunto. Tra le prime a partire, startup che sviluppano metodi di insegnamento innovativi delle lingue, l'elaborazione e la gestione di dati, stampa 3D nel settore odontotecnico, commercializzazione di imbarcazioni a vela con materiali riciclati o naturali, oppure soluzioni biologiche per ridurre l'uso di fertilizzanti chimici. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'Università di Udine è stata presentata la prima auto monoposto ecologica da competizione ideata e realizzata dagli studenti. Sentiamo. 328 kg, un motore elettrico da 80 kW di potenza e una velocità di 120 km/h. È la monoposto stile Formula 1 ideata e costruita da un gruppo di 50 studenti dell'Università di Udine per gareggiare nel campionato universitario internazionale di Formula Student. Il risultato del progetto Uniud Racing Team, nato nell'ambito del Lab Village dell'Ateneo Friulano, è stato presentato in mattinata. Una squadra suddivisa in 7 reparti. Luca Casarsa, professore di macchine fluide e sistemi energetici Università di Udine. Questa idea è nata 2 anni fa, in realtà sotto la spinta di alcuni studenti che, curiosi di volersi mettere alla prova in realtà su una sfida ingegneristica molto complessa, hanno proposto questa sfida e io, insieme ad altri colleghi del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, abbiamo raccolto e gli abbiamo dato una mano per coronare questo grande sogno e grande progetto di realizzare la prima vettura da corsa targata Uniud. Da quest'anno saremo in gara, il primo appuntamento è a metà luglio all'autodromo di Varano dei Meregari con l'evento, con la tappa italiana del campionato Formula Student. Yasmin Mangar, team leader. È stata una grandissima sfida sia in termini di tempo che anche di impegno, ci ha permesso di mettere in campo quello che impariamo sui banchi, anche di sperimentare, trovare nuove soluzioni che in alternativa non avremmo mai toccato, ma anche di vivere quella che è proprio una vita in azienda. Come avete deciso il pilota? Il pilota principale nostro è un nostro collega che già corre nei kart, quindi è un pilota che sicuramente potrà sia testare la macchina che permetterci durante i test di migliorarla in termini di assetto e quant'altro. Gli altri piloti invece faremo una gara internamente tra di noi e sceglieremo il più veloce. Già da domani le prime prove su strada in vista delle prossime gare. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno consegnato al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 2 astucci contenenti 62 monete antiche sequestrate all'interno di un'abitazione di un privato cittadino residente a Gorizia. La restituzione è avvenuta in esecuzione di un decreto di confisca di materiale storico presso l'abitazione di un uomo di 77 anni deceduto, abituale collezionista di oggetti antichi. Tra le varie cose prese in custodia dai carabinieri, anche cimeli della Prima Guerra Mondiale e alcune armi da sparo legalmente detenute. È stato accertato che le 62 monete provengono da uno scavo illecito e hanno per la maggior parte un'origine romana di età imperiale, poche altre di origine greca, turca ed europea. E alcuni massi sono caduti oggi sulla carreggiata della strada regionale 552 della Val Tramontina. La segnalazione è avvenuta poco dopo l'alba ai vigili del fuoco di Pordenone. La piccola frana contenuta dalle reti paramassi si è messa in moto qualche chilometro oltre l'abitato di Tramonti di Sopra, poco prima della località Maleon, lungo la strada del Passo Rest che porta in Carnia. Sul posto è giunta una squadra proveniente da Maniago. I pompieri hanno rimosso dalla sede stradale i massi di più grandi dimensioni che impedivano il transito dei veicoli. Sono intervenuti anche i tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade e il sindaco di Tramonti di Sopra. Titolo: l'azienda incaricata da Friuli Venezia Giulia Strade sta provvedendo al disgaggio dei massi pericolanti. La 552 è comunque regolarmente percorribile. Arrestato dalla squadra volante l'autore di un furto all'ecocentro di Cordenonce. Nella sua auto gli agenti hanno trovato batterie per veicoli, trapani e avvitatori, telefoni cellulari e autoradio. L'autore del furto, un 63enne marocchino residente a Vittorio Veneto, regolarmente soggiornante in Italia, con a suo carico precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era stato notato introdursi attraverso un varco nella recinzione all'interno dell'ecocentro. Di qui l'arresto in flagranza. La polizia locale di Trieste ha arrestato un presunto spacciatore a barcola. Sabato scorso gli agenti hanno notato lungo la riviera affollata fra i numerosi gruppi di giovani un 19enne apparentemente solo che veniva avvicinato ripetutamente da numerosi ragazzi e ragazze. Insospettiti, gli operatori hanno fermato due giovani e li hanno trovati in possesso di un quantitativo di marijuana. Al primo controllo il ragazzo aveva con sé circa 5 grammi di marijuana e banconote di piccolo taglio. La sua abitazione è stata poi perquisita e lì sono stati trovati altri 200 grammi di marijuana e cristalli di MDMA, una pericolosa droga sintetica. La carenza di personale specializzato è ormai una realtà nota e così uno dei maggiori gruppi industriali friulani ha organizzato un proprio recruiting day per coprire oltre un centinaio di posizioni scoperte. I colloqui vanno avanti serrati dalle 8 del mattino a gruppi di 20 persone negli spazi aziendali del quartier generale della Pitini qui a Osoppo. L'ultimo stasera alle 18, 165 preselezionati tra le quasi 400 candidature pervenute alla regione che ha organizzato per l'azienda friulana leader nella produzione di acciai lunghi questa giornata di reclutamento. La prima che cercano 120 persone da inserire in aree produttive corporate, dagli impiegati amministrativi ai tecnici agli operatori di produzione. Importanti le competenze richieste, il primo la presentazione, poi colloqui alternati a un immersivo virtual tour aziendale. I candidati arrivano dalla regione e dal nord-est, per la gran parte italiani, 40% donne, qualcuno appena uscito dagli istituti tecnici superiori o neolaureato, ma l'età media si appesa tra i 35 e i 40 anni e il dato che spicca è che si tratta per larga parte di persone già occupate con profili di valore ed esperienza in cerca di una nuova opportunità. Per questo nessuno è disposto a parlarci al microfono. La conferma della forte mobilità del lavoro, sottolinea il responsabile servizio alle imprese della regione Gianni Fratte, un fenomeno in crescita dopo il Covid, aggiunge. Le figure da inserire in stabilimento sono le più difficili da trovare anche nelle sedi estere, rimarca la responsabile di gestione e sviluppo risorse umane del gruppo Pittini, Micaela Di Giusto. La scelta della regione come partner, spiega le manager, per l'approccio nella ricerca che garantisce massima visibilità e qualità. Lo scorso anno l'azienda ha assunto 141 persone, per il 95% a tempo indeterminato, ricorda Di Giusto, e quest'anno punta ad assumerne altrettante per dar corso ai propri progetti di sviluppo. Le cerche, contando sui valori che la rappresentano e sulla formazione, è prevista per tutti i nuovi arrivati ed è organizzata dall'Officina Pittini per la formazione, scuola interna al gruppo accreditata con la regione e che da 20 anni offre servizi anche ad esterni. È quello, rimarca Di Giusto, su cui i candidati oggi più contano. Osoppo, Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile, alle 11 c'erano 19 gradi e mezzo a Trieste, a Pordenone 21 gradi, a Gorizia e Udine 19, a Tolmezzo 17 gradi e mezzo, a Tarvisio 15, a Forni di Sopra 13 e mezzo, sul Piancavallo 12 gradi e mezzo, a Sappada 12, sul Monte Zoncolano 8 gradi, sul Lussari 7, a Lignano 22 gradi, a Grado 21, temperatura del mare 21 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Per oggi pomeriggio tempo incerto con nuvolosità variabile, probabilmente un po' più soleggiato su bassa pianura e costa. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi e intermittenti, ma con maggiore probabilità al pomeriggio sera. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Domani al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio sarà possibile maggiore variabilità, specie in montagna, con possibili locali rovesci e qualche temporale. La probabilità di piogge e rovesci sarà inferiore su bassa pianura e costa, soffieranno venti di brezza. A dispetto della pioggia di questi ultimi giorni, la stagione balneare ha già preso il via sperando in un veloce ritorno del sole e del caldo, e nonostante i rincari quasi ovunque sul litorale, anche quest'anno è corsa ad accaparrarsi ombrelloni e lettini. Spiaggia, quanto mi costi, la stagione balneare è partita nonostante il meteo incerto, con il classico boom nei pochi weekend di sole e con le prenotazioni da quasi tutte esaurito nelle settimane tradizionalmente più calde. I rincari, va detto, mediamente sono sotto l'inflazione, ben sotto il 10%, ma vanno a sommarsi a quelli degli anni scorsi. A Lignano Sabbiadoro la stagione durerà fino al 17 settembre, nuovi i prezzi. Un giornaliero con ombrelloni in prima fila e due lettini passa dai 21,40 euro ai 22,50. Se non si vuole la vista mare, ci si accontenta dell'undicesima fila, il rincaro è stato di soli 90 centesimi, dai 17,60 euro ai 18,50. In percentuale conviene lo stagionale, meno del 4% in più, dai 1.398 ai 1.455 euro. Cresce e sfora quota 50 anche il prezzo dei richiestissimi gazebo. In prima fila sale dai 49 ai 51 euro, sempre in alta stagione. A Grado, spiaggia GIT, i costi sono ancora più alti. A seconda delle zone, nei giorni infrasettimanali, per ombrellone e due attrezzature, si va dai 15 euro dell'opzione Smart in una fila non vista mare ai 29,50 della prima fila nei settori più vicini al centro città. Prezzi che aumentano durante il fine settimana dai 20 ai 35 euro. Per chi vuole il lusso c'è addirittura il settimo cielo con ombrellone più grande e tre ingressi. Può costare fino a 76 euro al giorno nei weekend. Se si ha un cane nella zona della spiaggia vicina a quella libera, il boxer cintato ne costa dai 40 ai 46. In tutti i casi c'è l'aumento di circa il 4%, che riguarda anche gli stagionali. L'opzione più economica costa 1.281 euro, quella più cara, lusso escluso, 2.196. I rincari, secondo GIT, sono dovuti al passaggio del canone demaniale dai 60 ai 250.000 euro. E per chi invece vuole rimanere in città? A Trieste, a meno di non stare sugli scogli di Barcola, i prezzi non sono certo popolari. Ingresso con lettino in uno stabilimento vicino a Miramare sono 25 euro sia il sabato che la domenica, 18 nei giorni feriali. Il semplice ingresso con lettino al bagno più vicino al centro viene dai 3 ai 7 euro. Tutti prezzi in salita, addirittura lo storico e pubblico Pedocin passa dall'euro storico a 1,10 euro. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste da giugno si attivano per la prima volta i centri estivi a Miramare organizzati dal museo. Nel nuovo Miralab, lo spazio educativo nel parco storico pensato per i bambini, gli operatori specializzati di Studio Didattica Nord-Est proporranno attività laboratoriali naturalistiche ispirate al contesto del giardino botanico. Una giornata della settimana a Miramare sarà dedicata a un'incursione verso il Carso. Protagonista della settimana non potrà che essere il famoso castello di Massimiliano e Carlotta. Le settimane disponibili sono dal 26 al 30 giugno, dal 3 al 7 luglio e dal 21 al 25 agosto. Su richiesta è attivabile anche la settimana dal 28 agosto al 1 settembre. L'ultimo giorno di scuola, gli studenti del liceo Leopardi Maiorana di Pordenone hanno voluto festeggiarlo coinvolgendo l'intero quartiere di Via Colvera, dalle scuole primarie dell'infanzia alla Casa Colvera per anziani e alle molte associazioni del quartiere. Le aule, i corridoi e gli spazi comuni del liceo Leopardi Maiorana trasformati in laboratori, luoghi di incontro intergenerazionale, palcoscenici per la festa di rigenerazione comunitaria, come l'hanno chiamata i liceali, che hanno lavorato assieme ai propri docenti per oltre 6 mesi al progetto che coinvolge l'intero quartiere. Claudia Furlonetto è la referente dell'iniziativa. È l'evento conclusivo di un progetto che è partito da gennaio, che ha coinvolto soprattutto le classi terze e quarte, che hanno progettato attività laboratoriali sul tema dell'inclusione con i loro compagni disabili e sul tema della intergenerazionalità, quindi coinvolgendo le persone anziane che sono ospiti di Casa Colvera. Uno dei progetti più rappresentativi del percorso di crescita dei ragazzi è la creazione del gruppo Emazionando, in onore a Emma, che comunica solo attraverso la musica. Rebecca è la portavoce della band. È nato grazie alla signorina qui al mio lato, e suoniamo per lei tutte le volte, una volta alla settimana, e questo evento io direi di dedicarlo anche a lei. E quindi vi incontravate una volta alla settimana per tutto l'anno scolastico, anche di pomeriggio, quindi fuori orario, per suonare? Esattamente, da febbraio in poi ci siamo sempre incontrati quasi tutti i martedì. Ed è stata un'esperienza? Meravigliosa, mi hanno aperto il cuore in una maniera assurda. L'iniziativa di sostenibilità sociale del Leopardi Maiorana, che ha ottenuto il patrocinio del comune, è stata anche premiata dalla società Benefit PMG, che ha già assicurato il proprio sostegno anche per l'anno prossimo. Pordenone, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia. Torna la rassegna teatrale Let's Play, inserita nel cartellone di Trieste Estate, proposta unitariamente dalla Contrada, Bonaventura Teatro Miela e Teatro Stabile Sloveno. Dall'8 giugno al 2 luglio si svolgerà negli spazi esterni del Museo Sartorio. Prevede 8 spettacoli in 12 serate, 2 produzioni del Teatro La Contrada, 2 di Bonaventura Miela e 3 dello Stabile Sloveno. Il calendario prevede quest'anno 3 debutti, tra cui Sconfinarrando, uno spettacolo coprodotto da tutti e due e da tutti e tre i teatri, che aprirà la rassegna l'8 giugno alle 21. Si tratta di un viaggio attraverso scritture di confine su frammenti di autori del passato e del presente. La sera successiva andrà in scena Pina e Pierpaolo sul sodalizio artistico e umano tra Pasolini e la violinista triestina Josipina Calza, entrambi allora residenti a Casarsa. A chiudere la rassegna sarà invece Italo Svevo and Friends Blues Jazz Explosion, in versione rivisitata per il centenario della pubblicazione della Coscienza di Zeno. Una maratona musicale non stop di 36 ore dalle 10 alle 22 di ogni giorno, organizzata dal Movimento Italiano degli Artisti Contemporanei ABC, Accademie Belle Arti Conservatori, che vedrà impegnati sul palco artisti provenienti da tutta Italia a difesa e a sostegno del settore dell'alta formazione artistica e musicale e dei suoi artisti docenti. A spiegarne i motivi è Cristina Santin, docente del Conservatorio Tartini. Questa maratona è un nostro modo di manifestare per quello che è stato un colpo nel nostro processo di stabilizzazione. Siamo tutti docenti che operano in vari conservatori d'Italia da più di 3 anni, 4 anni, e secondo il sistema di reclutamento dei conservatori, che vige da 20 anni, avremmo dovuto avviarci verso una procedura di stabilizzazione delle graduatorie nazionali. Con un emendamento proditorio, mi si passa il termine, nel mille proroghe sono stati inseriti dei concorsi di sede, che a nostro parere sono anche scritti in modo da avere un certo tipo di alea, che fondamentalmente annulla tutta la nostra anzianità e va a colpire sia i docenti precari che anche la continuità di studio degli studenti. Cosa chiedete esattamente? Che vengano riconosciuti i nostri diritti. I docenti che hanno avuto la ventura di entrare nel sistema 3 mesi, 6 mesi prima della maggior parte di noi hanno avuto la stabilizzazione del ruolo lo scorso novembre. Ecco, noi non riusciamo a capire come si possa cambiare un sistema di reclutamento di cui forse era effettivamente bisogno, ma senza sanare situazioni pregresse e senza istituire un sistema concorsuale che sia strutturato, ben strutturato a livello nazionale. Chi parteciperà a questa maratona? Come funzionerà? Questa maratona è stata promossa da un sindacato di settore, si chiama ABC, che ha organizzato una 36 ore musicale Andremo in una sala con il pianoforte noleggiato, la strumentazione a 30 metri dal Ministero, sarà una sala aperta al pubblico, ci sarà una diretta streaming e per 36 ore il 6, il 7 e l'8 giugno dalle 10 di mattina alle 10 di sera, aperta alla politica e all'opinione pubblica, ci saremo noi docenti convenuti da tutta Italia a suonare, a regalare musica a chiunque vorrà in qualche modo sostenerci. Per gli operatori che devono garantire la sicurezza cresce la preoccupazione già alta per lo spareggio salvezza fra Verona e Spezia che si giocherà domenica alle 20.45 allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine. Per raggiungerlo le tifoserie avversarie dovranno percorrere il medesimo tratto autostradale ed è altamente probabile che vengano in contatto. Definire la scelta infelice è un eufemismo. Così Walter Mazzetti, segretario generale del sindacato della polizia FSP, ha commentato appunto la notizia dello spareggio salvezza fra le due squadre che deciderà la retrocessione e che si giocherà nel capoluogo friulano. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Viola Romanese e Eugenio Giuffrida, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.